ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, anche questa settimana insieme sulle frequenze di Radio Città Fujiko, mercoledì 13 marzo 2024. Signori, siamo quasi a primavera, quindi lo staff di Dedicato ringrazia la primavera che sta per arrivare. Oggi, sappiatelo, ve lo dico, è una puntata semidemenziale, direi. Tratteremo un argomento molto specifico e soprattutto di grande interesse per i nostri giovani e per i più cuccioli addirittura, per i bambini direi, perché i giovani adolescenti e semi-adulti direi che sono meno interessati a questo argomento. L'argomento è una parola che circonda le vite di noi genitori, ma non solo, anche di tutti gli educatori, gli insegnanti, chiunque frequenti i bambini e dei bambini stessi. La parola è appaianai, scusate bambini se non l'ho detta bene, provo a ripeterla, appaianai, no, appaianai, quella lì. È una parola particolare, cioè noi chiederemo oggi infatti ai bambini, ma che parola è, ma perché lo dite, ma che cosa serve? Cioè io ho un po' capito questa cosa. Appaianai si dice quando ti viene fatta una domanda e tu rispondi e allora ti viene risposto appaiai, è un po' al posto della vecchia pernacchia, no? Una volta si faceva questa pernacchia. Io avevo promesso qualche puntata fa un sondaggio su questa parola, perché effettivamente noi adulti, ignoranti, chiusi mentalmente, non capiamo questa creatività che hanno i bambini nel dire appaiai. E quindi ho deciso, insieme a alcuni fanciulli del nostro staff, di creare questo sondaggio. Sondaggio è proprio questo: cosa vuol dire appaiai e perché lo dite? Perché? Che motivazione c'è? Appaiai. Che cosa vuol dire appaiai? Appaiai vuol dire ma non hai sentito, sei sordo. Vuol dire sei sordo. Non hai sentito e sei sordo, vuol dire, giusto? Yes. Yes or no? Yes. Perché lo dici, scusami? Perché... ti piace? Perché mi piace, è moderno. Ti piacciono le sbarbine? Yeah, yeah, yeah. Vai, qualcos'altro da dire? Una nota, qualcosa? Hai preso delle note a scuola, così? A volte sì, però era di classe. Appaiai a me, ciao! Smoke on the Water, i Deep Purple. Bene, allora andiamo avanti con il nostro sondaggio su questa parola magica che dicono i bambini. Quindi direi di agevolare immediatamente le prossime interviste. Ah, poi Ari, lo diciamo per scherzo. Se lo facciamo per scherzare, per far ridere, quando qualcuno dice noi diciamo ah, poi Ari, e quando lo diciamo tutti ci mettono a ridere. Quindi secondo me è uno di divertimento. Secondo me appaiare significa ridere. Ridere, divertimento, giocare, scherzare, vocali, non lo so. Ok. Ciao. Bene, grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Nessuno lo sa cosa vuol dire in effetti. Secondo me vuol dire appaiare. Ah, giusto. E secondo te? Secondo me è un modo solo per dire appaiai. Hai detto appaiai. Okay. Non mi interessa niente, hai detto E con la appaiai, e con la appaiai, e con la ippii, e con la opuiui, e con la upuiui. Grazie mascotte, un'ottima intervista. E voglio dire un'altra cosa. Il nostro compagno di classe, se noi dice che è straniero, se diciamo a, dice appaiai, se diciamo e appaiai. Ah, lo dice sempre, insomma. Sì, esatto, perché ci sono certe persone che lo usano anche non solo con la E, ma anche con altre lettere. Per qualcuno significa una parolaccia, ma basta, grazie mascotte, grazie. Ciao. F appaiai. Non mi serve una sonave, lo so. Casa mia, casa tua, che differenza c'è? Non c'è, ma quale casa mia? Ma quale casa tua? Ma quale casa mia? Dal cielo è un vale, giuro. Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde. Sempre più verde. Il cielo è blu, blu, blu, molto più blu, ancora più blu. Ehi, hey, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci. Non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare. Figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto. Vorrei andare via, però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde. Sempre più verde. E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu. Ancora più blu. Non mi sento tanto bene. Però sto già meglio. Sempre più verde. Il cielo è blu, blu, blu. Casa Mia, abilmente introdotto dai nostri fanciulli che ci accompagnano in questa puntata. Bene, oggi abbiamo anche un tutorial sempre specifico sull'argomento di questa puntata, quindi direi di agevolare il tutorial della nostra mascotte che ci spiega un paio di cose. Hola chico, ora ragazzi, non so come... Hola boys, hola girls, non so dirlo in altre lingue, perfetto. I like italiano, inglese, spagnolo e altre lingue che non so parlare. Comunque questo tutorial non è sulle lingue. E quindi allora, si parte, perfetto, benissimo, partiamo, sì. Allora, questo tutorial è su appagnagnagnagnagnag. Non si dice così, eh. Non si dice così, si dice appagnagnai. E molte persone dicono appananai nai nai nai nai nai e non appananai o tananai. Quindi si è capito che si dice appagnai e non appananai o tananai o pappananai o tapanai o patkatai o nyangbanai o sanganpunzai o nizuko kamado. Addio! Che addio, scusatemi, sto impazzire. Comunque, al prossimo tutorial. Si dice appagnai, appagnai. Adios, aiu, ciao, bye bye. Oh, ho imparato una nuova lingua. Arrivederci. Ciao. Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza. Amarmi non è facile. Purtroppo io mi conosco. Ok, ti capisco. Se anche tu te ne andrai via da me. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio. Adesso vado dritta ad ogni bivio. Va bene, sono pazza. Io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona. Io faccio da sola e sono pazza di me, sì, perché mi sono odiata abbastanza. Prima ti dicono basta, sei pazza e poi ti fanno santa. Io cammino nella giungla con gli stivaletti a punta e ballo sulle vipere. Non mi fa male la coscienza e mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio. E se in giro è tutto un manicomio, io sono la più pazza che c'è. Io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona. Io faccio da sola e sono pazza di me, sì, perché mi sono odiata abbastanza. Prima ti dicono basta, sei pazza e poi ti fanno santa. Scusa se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse. Io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona, io faccio da solo. Loredana Bertè, pazza! Oh, vogliamo fare un ragionamento serio, almeno uno in questa puntata, poi serio, insomma, ecco, una valutazione musicale e sul testo di questa canzone, Pazza, di Loredana Bertè. Allora, la prima volta che io l'ho sentita, prima strofa, ok, testo interessante, musica bella, vado avanti, arrivo al ritornello e sento, perché ormai l'età è quella che è, sento sono pazza di te. E penso, vabbè, solito pezzo d'amore, sono pazza di te. Poi la mascotte mi fa notare e mi dice, guarda che non ha detto pazza di te, ma pazza di me. Al che il mio udito si è riallineato con la realtà e effettivamente qui scatta la genialità del pezzo, nel senso che il sono pazza di me vale per tutte noi donne, per qualsiasi esperienza vissuta. E qua Loredana si esprime come sempre al meglio, quindi con la mascotte abbiamo valutato che è veramente il pezzo dell'anno, perché va a coinvolgere anche una bambina di 9 anni che di esperienze ne ha vissute poche finora, però si è sentita anche la mascotte partecipe di questo testo e l'ha vissuto in prima persona. Quindi chiudiamo il ragionamento serio di oggi e agevoliamo di nuovo le nostre interviste sulla parola del giorno, cioè a pai. Spero di averla detta bene, bambini. Ciao, allora spiegami un attimo anche tu, cosa vuol dire a pai e perché lo dici? Cosa vuol dire? A pai non vuol dire assolutamente nulla e si dice solamente per prenderti un pochino in giro quando dici Ah, ok, quindi lo dici per prendere un po' in giro, per scherzare? Sì, esatto. Ok, ok, grazie. Allora, cosa vuol dire secondo te appaiaiai? Allora, per me appaiaiai è una parolaccia francese e praticamente si dice quando uno in una frase dice e a quel punto si dice appaiaiai. Ah, ok, e perché lo dici? È per scherzare. Ah, ok, va bene. Ma cosa vuol dire appaiaia? Perché l'hai detto? Secondo me vuol dire qualcosa. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, but I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. Cause I'm begging, begging you, put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you, put your love in the hand out, darling. I need you to understand, try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, she don't embrace it, why the feel for the need to replace me. You're the wrong way, trying to find the good, I went up in the feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit, you can give it away, you have and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for that the dog is yours, keep also home, cause I'm the one that live in a broken home. Girl, I'm begging, yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, not your face. I Maneskin con Begging. Allora, ci tengo a specificare che le scelte musicali di questa puntata sono tutte dei bambini, nel senso che non ho assolutamente nulla da dire, ci mancherebbe altro, però forse io avrei fatto altre scelte musicali e i bambini invece ci hanno portato, ecco, in una direzione interessante, sempre molto simpatica. Ecco. Ora invece mandiamo un'intervista della nostra mascotte, che anche questa siamo sul semidemenziale, direi, ma dico semi perché mi riferisco sempre a dei bambini, quindi siamo in un'atmosfera fanciullesca oggi, per cui la nostra mascotte non ha fatto una vera e propria intervista, mi aveva detto adesso faccio io le interviste, perché è andata un po' in gelosia, no, del fatto che ogni tanto in dedicato ci sono delle interviste con dei personaggi anche molto interessanti, e quindi anche lei ha voluto provare a fare la sua prima intervista, ma non è uscita proprio un'intervista, ecco, diciamo, quindi ascoltiamola. Bene, sentiamo cosa vuole dire. Diamo voce alla verità. Intanto ci sono voci in sottomondo. Salve. Salve, di persone che introdurremo poi nel corso, sì, nel corso degli anni, degli anni con molta calma, che molto probabilmente io sarò già all'estero, scappata. Sto tramando di andare all'estero a Parigi, così scapperò da questa città. Segno, va a Parigi, me lo segno. Vado a Parigi, in una città nascosta nel bunker. Mi metto nella Torre Eiffel, nascosta sopra, faccio un bunker. Anzi, mi travesto di Fuschia e mi metto sopra la Torre Eiffel, così non mi vede nessuno. Allora, a proposito di Parigi, parliamo delle nostre vacanze. L'ultima vacanza che hai fatto? Non mi ricordo. Io l'ho fatta in Abruzzo. Io a Meta. Salve, lei chi è? Lei chi è? Sono la madre di... La madre... di la questa madre. Ospite! La sì. Madre di questa ospite! Sì. La mamma del piccolo ospite qui presente. Piccola! È la madre di tutte le madri. Ciao! Un saluto a tutti! La Meta! L'hai detto saluto alla bolognese! Un saluto a tutti! Dica qualcosa in napoletano. Te vuoi come Yamka! Posso raccontarti una barzelletta? Va bene. Allora, un paziente va dal dottore e dice: dottore, dottore, io ho un problema. Il dottore risponde: che problema c'è? Beh, il problema è che io faccio ogni mattina la cacca alle 7:30. Beh, e quindi qual è il problema? Il problema è che mi sveglio alle 8. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Holla, hollala, hollala. Non mi devi ricopiare. Non mi devi ricopiare. Basta. Basta. Ti tiro una pasta in testa. Ti tiro una pentola in testa. Ti tiro degli spaghetti in testa. Ti tiro una fucilata in testa. Ti tiro un albero di mandarini in testa. Ti tiro un cover garden in testa. Ti tiro un naso in testa. Ti tiro delle sedie in testa. Ti tiro un barile in testa. Ti tiro un vaso in testa. Hai perso, hai riso. Bene, grazie alla mascotte e alla sua simpatica ospite, ci hanno appena dimostrato come nascono le guerre. Nascono da un saluto sbagliato. Hola, hola, hola, ho. Per arrivare a ti spacco di tutto in testa e poi hai perso, perché la guerra uno vince e uno perde. Questa è la dura realtà che anche i bambini vivono quotidianamente, purtroppo. Facciamocene una ragione, ragazzi, ma possiamo ancora cambiare il mondo, io ne sono convinta, e anche la mascotte. Comunque, ora ci salutiamo perché siamo arrivati alla fine della nostra puntata e vi lasciamo con l'ultimo minuscolo pezzo di sondaggio su AppAI, che dà un po' una conclusione quindi a questa nostra ricerca su questa parola magica che usano i bambini. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre mercoledì, sempre alle 13, sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Ciao! Allora, e tu perché dici AppAI e che cosa vuol dire? Non vuol dire niente, ma... AppAI lo usano per scherzare. Ah, ok, quindi anche tu dici è uno scherzo. Sì. Perfetto, va bene. Quindi abbiamo scoperto, signore e signori, che questa parola è uno scherzo. Giusto? Giusto. Giusto. Oh no. What? Come? Aiuto!